Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Gli agguati della micidiale coda marzolina dell'influenza hanno colpito anche la redazione di Mebius. Buonasera a tutti e tutte. Ecco allora che in questa puntata vi presenteremo un mix di servizi nuovi, ma anche la replica di qualche tema già trattato e che però ci è sembrato interessante. Vi dico subito che il nostro quiz è nuovo e quindi potete parteciparvi. Ascoltiamo insieme i titoli allora. Rifiuto con affetto, e si usa pure un cassonetto. Un'idea originale per riutilizzare i tanti oggetti che si vorrebbero buttare via. È uno dei progetti segnalati dal concorso Che Idea, realizzato da Chilometro Rosso. Gli italiani costruiscono le più belle giostre del mondo, ma c'è tanta fisica e tecnologia in queste macchine. Scopriamo come si progettano. Qual è la forma dell'universo? Per scoprirlo ci vogliono un'astronave e un'infinità di tempo. Oppure bisogna dimostrare la congettura di Poincaré. Una scoperta sorprendente all'interno delle grotte di Frassassi nelle Marche. Sono stati trovati resti di anguille. Risalgono a migliaia di anni fa, ma come sono arrivate laggiù? Gli Indiana Jones contemporanei sono biologi, geologi e zoologi. Lo vediamo a Katna, antica metropoli siriana dell'età del ferro. Forse una definizione che si può usare è quella di armadio pubblico, così pubblico che se ne sta in strada. E adesso che vi parliamo del baratto, del quale Chiara Albicocco vi dà una definizione in apertura di questo servizio, che presenta una delle innovazioni segnalate al concorso Che Idea, indetto dal Parco Tecnologico Chilometro Rosso. Di altre tecnologie premiate in questo concorso vi parleremo più avanti. Ascoltiamo questo servizio allora, che ha anche un titolo: Rifiuto con affetto. Il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi tra due o più soggetti, senza uso di moneta. Ecco, questa è la definizione letterale di baratto. Quello di cui voglio parlarvi oggi si avvicina molto a questa pratica, ma possiede anche dei risvolti emotivi. Il progetto si chiama Rifiuto con affetto ed è stato messo a punto da tre giovani designer che ora sono raggruppati in un collettivo di artiste che si chiama Publink. Ecco, l'idea nasce un po' dal frequente pensiero che ognuno di noi ha di fronte a un oggetto caro, ancora utilizzabile ma che ormai non si usa più da tempo. Chi di noi non ha mai detto la frase "mi dispiace buttarlo via"? Ci spiega tutto Maria Zanchi, che è una delle giovani designer che hanno sviluppato questo progetto, Rifiuto con affetto. Intanto buonasera. Buonasera. Sì, Rifiuto con affetto è appunto un progetto che nasce da questa frase che abitualmente noi utilizziamo, abitualmente noi diciamo appunto "mi dispiace buttarlo via". Quante volte ne l'abbiamo detto e quante volte ci avrebbe fatto piacere che ci fosse qualcosa che rispondesse a questa domanda. E allora abbiamo ideato questo progetto Rifiuto con affetto, che non è altro che una modifica a un vecchio cassonetto, ossia abbiamo asportato la parete frontale di un cassonetto e l'abbiamo sostituita con due ante trasparenti. Questo cosa permette? Permette alla gente di passaggio sulle strade di vedere cosa c'è all'interno del cassonetto e quindi di incuriosirsi di una cosa che solitamente non viene assolutamente guardata. Quindi si tratta un po' di uno scambio, c'è chi porta del materiale, degli oggetti di cui si vuole sbarazzare ma che sono ancora utilizzabili, e c'è chi invece passa e li raccoglie. Esattamente, cioè non è un baratto, nel senso che non c'è un obbligo di lasciare e di prendere, ecco. Ma c'è una completa libertà dello scambio, quindi una persona può benissimo mettere e non prendere niente, come qualcun altro invece può lasciare e non prendere, insomma le alternative sono le più svariate. Ecco, diciamo che è un po' la nuova frontiera del riciclo, anzi in questo caso non si ricicla più, si riutilizza. Esattamente, si riutilizza, infatti comunque anche a livello di impatto ecologico è una novità, perché non parliamo più appunto di riciclaggio, ma bensì di pensare a quale può essere una seconda vita degli oggetti, quindi non c'è una nuova produzione ancora, che è la produzione che c'è comunque dietro il riciclaggio, ma c'è un semplice riutilizzo di un qualcosa che è già stato prodotto, per cui insomma noi facciamo anche molte riflessioni rispetto a quello che è il discorso del consumismo piuttosto che dello spreco, quindi il fermarsi di fronte al gesto quotidiano del buttare via qualcosa, il fermarsi e pensare come posso riutilizzare questa cosa, o meglio c'è magari qualcuno che può riutilizzare questa cosa. Ecco, che tipi di oggetti vengono lasciati, o meglio, avete trovato qualche oggetto particolare? Ma gli oggetti sono veramente dei più svariati, noi stessi ci siamo sempre un po' stupite di quello che trovavamo. Gli oggetti più, diciamo, quelli soliti che si trovano sono vestiti piuttosto che scarpe, borse o elettrodomestici, tante cose legate al computer, tanti giocattoli per bambini. Una volta, beh, così molto simpaticamente, sì, avevamo trovato un oggetto con addirittura un bigliettino allegato con scritto utile per chi fa trasloco. E questa cosa era stata veramente molto curiosa. Ed era, e che cosa era? Era un blocca cestello della lavatrice, che appunto almeno noi ci chiedevamo cosa servirà, cosa può servire questo oggetto. Ecco, c'è chi lo sa, in effetti. Chi lo sa e chi lo utilizza, insomma, chi pensa soprattutto che può essere utile per qualcun altro che fa un trasloco. Assolutamente. Ecco, a questo proposito io ho trovato su YouTube dei video in cui voi avete messo le interviste dei fruitori, sì, del vostro servizio. Ascoltiamone uno stralcio. Mi sembra una buona iniziativa, perché si sprecano talmente tante cose che almeno gli oggetti che non usiamo possiamo condividerli. Oh, mi piace veramente, perché come studentessa di Erasmus non hai tanti soldi, allora col cassonetto puoi fare lo shopping senza pagare. Ho trovato un paio di jeans, una giacca, una borsa, due foulard, due tazze, una tovaglia per la spiaggia, una poltrona bellissima, super chic, super design. Ah, è simpatico. Non dover buttare via le cose così è un'idea geniale, devo dire, no? Se tu vai in giro con una giacca che hai trovato e incontri la persona che ha messo la giacca nel cassonetto, parlate e sì, alla fine siete amici, non lo so. Abbiamo sentito le voci dei ragazzi che hanno utilizzato questo vostro cassonetto, infatti è già stato installato in alcuni comuni, tra cui Venezia, e poi avevate utilizzato dei cassonetti vecchi che erano stati un po' trasformati, invece adesso c'è il nuovo progetto, dei cassonetti ad hoc per diffondere maggiormente questo tipo di pratica? Esatto, sì, cioè dopo 2 anni di sperimentazione su una modifica di un vecchio cassonetto, abbiamo ideato un vero e proprio nuovo modello di cassonetto che stiamo lanciando proprio in questi giorni. Infatti, insomma, fra qualche settimana aggiorneremo il sito www.rifiutoconaffetto.it. Perfetto. E su lì potrete trovare, insomma, tutte le varie informazioni. E la cosa interessante di adesso è che proponiamo questo cassonetto non solo sulle strade delle città, ma anche all'interno di scuole, piuttosto che centri di aggregazione, biblioteche, per cui c'è anche un utilizzo diverso di questo cassonetto. Va bene, allora ci tenga informati. Va bene, la ringrazio. È un primato che il nostro paese ha da tempo, quello della costruzione delle macchine per divertimento nei Luna Park, che sono considerate tra le migliori al mondo. Però dentro queste macchine c'è una tecnologia, c'è anche molta fisica, progettarle deve tener conto di questi aspetti. Tra le aziende italiane di alto livello c'è anche la Bertazzone. Questa sera ho qui con me Michele Bertazzon, buonasera. Buonasera a lei. Lei è uno dei direttori, ha un po' l'incarico anche di supervisione di questa azienda, che è però una classica e forte azienda con radici familiari all'italiana. Senta Bertazzon, noi vorremmo porle sostanzialmente 2 domande. La prima è questa: in queste macchine in cui ci sono delle movimentazioni complesse, possiamo immaginarci per esempio quelle strutture che sono in rotazione su se stesse mentre ruota anche interamente tutta la giostra, e su queste cose trovano posto, insomma, le persone, noi ci andiamo fisicamente. Ecco, qui in queste macchine ci sono dei movimenti nei quali bisogna tener conto, come dire, dell'accelerazione di gravità, ci sono un po' degli effetti, non dico della stessa intensità, ma come i piloti di caccia militari. In che modo, sia dal punto di vista della costruzione della macchina che dal punto di vista del tener presente quali possono essere le sollecitazioni che il nostro corpo può seguire, ecco, in che modo voi progettate questo aspetto? Ma nel momento in cui si è ideato, diciamo, un movimento e un'estetica che si vuole attribuire a una nuova macchina, a un nuovo progetto, poi chiaramente si va fin da subito a verificare quelle che sono le sollecitazioni che vengono poi applicate ai passeggeri nel momento in cui la macchina si muove e quindi anche a tutta la struttura. Quindi si va a simulare quelle che sono le sollecitazioni, quindi le accelerazioni a cui verranno sottoposti i passeggeri. Le chiedo che tipo di accelerazioni sono possibili, che differenza ci sono tra queste accelerazioni? Ma l'accelerazione, come ha accennato lei prima, si misura in G, che poi un G equivale alla forza di gravità. Sì. Però le accelerazioni si misurano, i limiti diciamo sopportabili dal corpo umano, i limiti di accelerazione sopportabili dal corpo umano dipende, sono in funzione della direzione in cui si sviluppa, diciamo, in cui viene applicata questa accelerazione e anche il tempo per il quale il corpo viene esposto all'accelerazione. Io faccio un esempio, quando uno va a correre con un semplicissimo autoscontro, che tutti conosciamo, quando urta il paraurto può raggiungere picchi di accelerazioni che sembrano enormi, magari 10-12 G, però sono istantanei, quindi non recano alcun danno al corpo umano. Mentre l'applicazione, diciamo, assoggettare un corpo umano a accelerazioni simili per un periodo magari di 30 secondi potrebbe essere anche fatale. La seconda cosa che vorrei sapere è come si progetta una macchina di questo genere, cioè come procedete? Ma come dicevo prima, si parte da un'idea. Un'idea può essere anche lo sviluppo di realizzazioni precedenti, perché comunque dopo, cioè, l'inventare da zero non è che lo si faccia proprio ogni giorno. Comunque, diciamo, si traccia un'idea di una macchina, quindi si ipotizza quello che può essere un movimento, quello che può essere anche l'estetica, e da lì poi si inizia a simulare. Oggi la tecnologia mette a disposizione dei software che chiaramente permettono anche di creare modelli tridimensionali, si parte da una bozza, poi si va ad affinarla man mano, finché poi si arriva a aver definito una struttura abbastanza dettagliata per passare quindi poi alle verifiche strutturali e dinamiche, e di lì poi, appunto, come avevo accennato prima, valutare i limiti di accelerazioni per la macchina stessa, per i passeggeri, eccetera. E poi voi nella fase finale utilizzate delle competenze specifiche ingegneristiche, insomma, per verificare l'assetto del tutto? Beh, noi come azienda, diciamo, sviluppiamo il progetto fino alla stesura, direi, una bozza di progetto di quella che è la macchina. Poi, a seconda della complessità della macchina, ci si può appoggiare a strutture esterne di ingegneria, e noi da tantissimi anni ci appoggiamo a uno studio tedesco e loro eseguono, diciamo, la verifica numerica, se vogliamo, quindi la verifica proprio della resistenza della struttura che abbiamo ipotizzato inizialmente. Michele Bertazzon, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Pronte? Perché siamo al quiz. Il quesito di oggi è il seguente. Avete una macchina molto veloce, anzi è decisamente veloce, perché riuscite a superare la velocità del suono, circa 300 metri al secondo, più di 1000 km orari. La domanda è questa: se nell'auto, mentre andate a più di 1000 km orari, accendete la radio, riuscite a sentirla? Tre possibilità, come al solito. La prima possibilità: non esistono automobili tanto veloci, ma se ci fossero, ebbene, a bordo non si potrebbe ascoltare una radio o un lettore musicale qualunque. Niente suoni oltre la velocità del suono. Ci scriverete niente. Seconda possibilità, perché mai non si dovrebbe ascoltare la radio? Il suono che esce nell'abitacolo si muove sull'aria che c'è in questo abitacolo e quest'aria va alla velocità del suono. Il suono quindi non si muove rispetto a un'aria ferma, ma a un'aria che viaggia alla sua stessa velocità. Ci scriverete aria. Terza possibilità, dipende da che auto avete e da dove si trova la radio. Se è una macchina scoperta e la radio ha gli autoparlanti sul retro dell'abitacolo, allora non si sentirà nessun suono. Se la macchina ha un abitacolo chiuso, allora il suono si sentirà. Ci scriverete dipende. Scriverete come al solito un SMS a questo numero 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Il magico libro dei numeri di Tim Glynne Jones, edito da Vallardi. In collaborazione con IBS.it. Tor Vergata è un quartiere di Roma. Le Galapagos invece sono l'arcipelago affascinante lontano da noi, nel Pacifico. Come stanno insieme questi due luoghi? Il fatto è che a Tor Vergata c'è una università e un gruppo di ricerca che qui opera è finito alle Galapagos perché lì ha trovato l'iguana rosa. Chiara Albicocco vi racconta questa storia. Io vi dico che sul nostro sito, potete trovarlo andando in Google e digitando Möbius Scienza, sul nostro sito troverete tante belle foto dell'iguana rosa. Ascoltiamo. Il 2009, oltre ad essere l'anno dell'astronomia, è anche l'anno in cui si celebra il bicentenario dalla nascita del naturalista Charles Darwin, il padre delle teorie evoluzionistiche, che nel 1835, a soli 26 anni, approdò sulle isole Galapagos. Finora abbiamo sempre pensato che al grande naturalista non fosse sfuggito nulla e alla sua scrupolosa attenzione non fosse sfuggita neanche una specie. Invece sembrerebbe non essere così. Infatti un moderno Charles Darwin dell'Università di Tor Vergata ha scoperto una nuova specie di iguana rosa, la cui origine risale a 5 milioni di anni fa, un vero e proprio fossile vivente. Gabriele Gentile è il suo nome e infatti ha visitato una zona completamente inesplorata da Darwin, il vulcano Wolf, sull'isola Isabel, una delle Galapagos appunto, e proprio lì ha scovato una nuova specie. Ecco, c'è da aggiungere che Gentile coordina un gruppo che si chiama Genetica di Conservazione di Iguane Terrestri delle Galapagos. E certo, Gentile, che se non la trovavate voi questa specie di iguana rosa, chi altro avrebbe dovuto? Beh, noi ci siamo andati, intanto saluto tutti quanti gli ascoltatori. Buonasera. Buonasera a tutti. Eravamo davvero molto motivati nel fare questa cosa, tant'è vero che abbiamo proprio dedicato due missioni di ricerca nel 2005 e nel 2006 con due viaggi organizzati apposta per cercare di scovare il maggior numero di iguane rosa. Ecco, lei Gentile è zoologo, abbiamo detto, di Tor Vergata. Allora dai, ci racconti un attimo come si è imbattuto in questa iguana finora sconosciuta e di cui si conosceva in realtà l'esistenza soltanto per dei passaparola di alcuni guardaparco che vivevano lì. Questa è una bellissima definizione, effettivamente il processo è andato proprio un po' in questi termini. L'occasione per studiare le iguane rosa è venuta nell'ambito, diciamo così, di un finanziamento che ho ricevuto nel 2003. Ricevendo questo finanziamento è stato possibile dare inizio a un programma abbastanza ampio, che è diventato molto rapidamente un programma di tipo multidisciplinare che coordino io, è basato qui a Tor Vergata, ma anche tra i vantaggi dalla collaborazione di molti altri ricercatori e istituti anche a livello internazionale. Per una volta siamo noi italiani che abbiamo un programma basato in Italia che riceve la collaborazione di scienziati stranieri e non il contrario. Mi è capitato di andare alle Galapagos e di parlare con persone, ricercatori del posto, e sono venuto a conoscenza dell'esistenza di questa forma che, come appunto ha detto giustamente lei, però era conosciuta, era un po' un mito in realtà, perché se ne conosceva l'esistenza per l'incontro accidentale che c'era stato nell'86 con alcuni guardiaparco e altri ricercatori che si trovavano nella zona. Parlando di questa forma, devo dire, mi è rimasta nella testa e quindi l'interesse è nato, si è sviluppato fino all'organizzazione di questi viaggi che ci hanno portato proprio sulla cima di questo vulcano nel 2005 e nel 2006. Ecco, ci dica qualcosa di questa iguana rosa o iguana rosada, se vogliamo dirlo alla spagnola. Perché innanzitutto questo colore rosa, che dimensioni ha? Insomma, ci racconti qualcosa. Dunque, è un'iguana terrestre, quindi le sue abitudini sono spiccatamente terrestri e quindi è diversa dall'altra iguana nota alle Galapagos, che è l'iguana marina, con la quale però fortemente imparentata, tant'è vero che le due forme sembra appunto abbiano avuto un antenato comune che è esistito intorno ai 10-11 milioni di anni fa. E l'iguana terrestre è rosa per motivi che in questo momento sono ancora sconosciuti, cioè una risposta onesta a questa domanda non lo sappiamo, possiamo, ecco, fare delle speculazioni, delle ipotesi. Esattamente, una di queste è che questa pigmentazione in realtà sia dovuta all'assenza di pigmento, cioè quello che sappiamo per certo è che le iguane terrestri hanno carotenoidi e usano carotenoidi anche per la loro pigmentazione della pelle. Questo pigmento non è così presente, anche se la molecola c'è nell'organismo, sembra mancare nel derma di queste iguane, ma in realtà, come ho appena detto, noi non abbiamo una ipotesi certa e dobbiamo accumulare più dati, cosa che non abbiamo fatto finora perché dobbiamo appunto operare delle biopsie e non ci sentiamo di intervenire in modo invasivo su questi animali che sono così pochi e a rischio. Ecco, tra poco parleremo anche del rischio di estinzione. Volevo aggiungere una cosa: gli altri rettili, le altre iguane che si incontrano sull'isola invece sono di colore più giallo, più marroncino, insomma le solite iguane, sì, che siamo abituati molto a pensare. Io non l'ho detto appunto che le dimensioni sono molto simili in realtà, si tratta di animali che possono raggiungere 1,20 m compresa la coda e possono pesare anche una decina di chili. La differenza sostanziale con le altre iguane terrestri è che queste appunto appunto hanno questo stranissimo pattern di colorazione, rosa a strisce nere, ma anche per alcuni tratti del comportamento, in particolare in un comportamento che viene usato in un contesto di territorialità, cioè la difesa del territorio tra maschi, e anche durante il corteggiamento, e quindi questo comportamento, che è così distintivo rispetto alle altre specie di iguana gialla presente nell'arcipelago, potrebbe anche avere la funzione, diciamo così, di meccanismo di isolamento pre-mating. Ecco, voi avete fatto anche delle analisi genetiche sul DNA mitocondriale di questi rettili. Che tipo di informazioni, soprattutto dal punto di vista evolutivo, avete ricavato? Sì, abbiamo utilizzato il DNA mitocondriale e anche il DNA nucleare per ottenere risposta a due domande di tipo diverso. Il DNA mitocondriale l'abbiamo utilizzato per ricostruire un po' la storia evolutiva e i rapporti genealogici che legano questa forma rosa con le altre due specie di iguana terrestre presente alle Galapagos. Quello che abbiamo scoperto è che mentre le altre due specie si sono differenziate molto recentemente, in un periodo di tempo che è compreso nell'ultimo milione di anni, la linea che ha portato all'iguana rosa, di cui l'iguana rosa è l'unica forma rimasta, si è invece originata molto indietro nel tempo, tra i 5 e 6 milioni di anni. Il DNA nucleare invece ci ha permesso di capire che le due forme, la gialla e la rosa, che vivono pure nelle stesse aree, sono isolate geneticamente, con scarsissima importanza della ibridazione. Quindi, ecco, quindi non si accoppiano, diciamo, tra loro. No, abbiamo chiara evidenza di un isolamento molto forte. Gli individui che voi avete incontrato, che avete campionato sull'isola, sono meno di una quarantina, ecco, una popolazione piuttosto esigua. Anche questi animali, anche questi rettili hanno, diciamo, il problema comune che hanno molti animali delle Galapagos, il rischio di estinzione. Ecco, le cause sono varie, non ultima la presenza umana e anche l'elemento di disturbo delle specie invasive, che possono essere anche gli animali domestici che l'uomo ha importato, è così? È una giustissima osservazione, infatti credo che questa è un'opportunità per riflettere sull'importanza degli equilibri all'interno di ecosistemi così delicati come per esempio quello delle Galapagos. Ora, specie che alle nostre latitudini non destano nessuna preoccupazione, perché chi ha paura di una capra, no? O di un asino? Quindi noi non pensiamo a loro come animali pericolosi, però in un ambiente sbilanciato, diciamo così, o perlomeno molto delicato come quello delle Galapagos, dove l'evoluzione in milioni di anni senza veri predatori, diciamo, ha fatto sì che gli animali sviluppassero un senso di mansuetudine e di confidenza molto marcato, quello che sappiamo appunto è che una volta che questi animali vengono rilasciati, si rinselvatichiscono e costituiscono dei pericoli seri, perché per esempio la capra e l'asino possono essere dei competitori per il cibo, e invece il cane e il gatto, ma anche il ratto, che è stato anche lui introdotto accidentalmente, certo, sono invece dei voraci predatori, e nel caso delle iguane questi possono predare uova, piccoli, nel caso del cane anche gli adulti. Insomma, una situazione che va tenuta sotto controllo. Quando tornerà alle Galapagos? Ci torniamo ad aprile, speriamo, presto. E devo dire una cosa, se mi è consentito, molto brevemente. Prego. Quest'iguana, al di là della stranezza, al di là dell'importanza tassonomica di aver trovato una specie nuova di megafauna poi in un arcipelago così studiato, al di là del fatto che questo è un po' il luogo paradigmatico dello sviluppo del pensiero evolutivo, perché appunto c'è stato Darwin e ha raccolto talmente tanti dati che poi sono stati fondamentali per lo sviluppo della sua idea di evoluzione per selezione naturale. Al di là di tutto questo, bisogna dire che si porta appresso un'eredità evolutiva notevole, perché rompe un silenzio evolutivo di 9 milioni di anni, che va dal momento in cui la linea marina e la linea terrestre si sono diversificate. La linea marina e la linea terrestre, mi scusi, di questi rettili, di queste iguane. Di queste iguane alle Galapagos, no? La marina e la terrestre hanno un antenato comune che è esistito alle Galapagos intorno ai 10-11 milioni di anni fa. Successivamente le due forme gialle che conosciamo, con le quali abbiamo familiarità, invece si sono diversificate dopo, nel Pleistocene sicuramente, quindi intorno a un milione d'anni e anche meno. Quindi nel frattempo c'è un silenzio che abbiamo rotto appunto grazie anche a questa scoperta qui, perché l'iguana rosa ci dà testimonianze di un processo evolutivo di cui noi abbiamo assolutamente perso ogni traccia. E se volessimo fare un paragone, potremmo dire che della storia evolutiva delle iguane alle Galapagos, noi avevamo un libro con soltanto alcune pagine iniziali e pagine finali. L'iguana rosa ci ha permesso di fare un po' un viaggio a ritroso nel tempo, di ritrovare alcune pagine centrali, aprendo una finestra temporale che ci ha illustrato almeno alcuni dei meccanismi e dei processi evolutivi che possono essere avvenuti alle Galapagos e che hanno lasciato invece scarsissima traccia nei fossili ma anche nei geni di questi organismi. Perfetto, la ringrazio per la chiarezza e per averci fatto capire davvero l'importanza di questa scoperta. Le faccio in bocca al lupo per il prossimo viaggio e sicuramente quando tornerà vogliamo essere aggiornati su tutto. Molto molto volentieri, verrete con me attraverso i miei racconti. Si supponeva già, la ricerca è dell'anno scorso, che circa 13.000 anni fa in sei zone degli Stati Uniti molto distribuite, una è confinante con il Canada ma un'altra è nello stato dell'Arizona, quindi decisamente più a sud, si supponeva già, dicevo, che una pioggia di meteoriti probabilmente deve aver raggiunto il suolo, un grosso meteorite iniziale apertosi in sei pezzi durante l'impatto con l'atmosfera terrestre, impatto che deve aver prodotto danni notevoli a flora e fauna con la scomparsa di molti animali, mammut per esempio, ma anche di popolazioni umane per quanto fossero molto rarefatte a quei tempi. Una supposizione, vi ho detto. Un gruppo di ricerca successivo ora ha fatto una scoperta singolare. In questi sei luoghi dove è avvenuto l'impatto si trova una quantità notevolissima di nanodiamanti, praticamente una polvere di diamanti. Come può formarsi una polvere di questo genere? C'è un modo molto semplice: pressioni enormi e temperature altissime, proprio quelle che si generano nell'impatto di un meteorite con la superficie di un pianeta. Allora quella supposizione di cui vi dicevo è diventata un dato scientifico piuttosto ben provato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cosa ci fanno dei resti di anguille nel fondo di una caverna? La risposta nel servizio di Barbara Gallavotti, che vi racconta di questo ritrovamento singolare nelle grotte di Frassassi in provincia di Ancona. Intorno alle feste di fine anno l'anguilla diviene protagonista di moltissime cene tradizionali. Anche noi vogliamo festeggiare il nuovo anno, se non mangiando anguille, almeno parlando di loro. Le nostre protagoniste non sono in realtà molto fresche e neppure molto nutrienti. Parliamo infatti di anguille subfossili, cioè sostanzialmente resti di pelle e ossa. Sono state scoperte nelle grotte di Frassassi, nelle Marche, e hanno dato il via a un piccolo giallo scientifico. Ce lo racconta il nostro ospite, Alessandro Montanari, dell'Osservatorio Geologico di Col di Gioco e parte del gruppo di ricercatori che ha firmato un lavoro sulle misteriose anguille di Frassassi, pubblicato sulla rivista Earth and Planetary Science Letters. Buonasera. Buonasera. Parliamo di centinaia di resti di anguille trovati praticamente incollati alle pareti di una grotta, quindi nelle viscere della Terra e per giunta a 5 metri di altezza. La domanda che ci poniamo, probabilmente la stessa che vi siete posti anche voi, come ci sono finite laggiù? Sono entrate dal fiume Sentino, attraverso grotte, passaggi comunicanti con il fiume, e si sono persi nel livello più basso del sistema carsico, del sistema delle grotte di Frassassi. Diciamo il piano terra, che è allo stesso livello del fiume ed è invaso da acqua. Acqua freatica, della falda acquifera, insomma. Queste anguille sono entrati dentro la grotta da delle aperture naturali e poi si sono perse lì, adattandosi per un certo periodo a vivere in questi laghi sotterranei che troviamo nelle grotte di Frassassi. Ecco, però voi l'avete trovate a 5 metri di altezza, ben sopra il livello dell'acqua. E infatti, questa era la cosa più strana. Se uno pensa un'anguilla, un animale viscido, e ovviamente non si può arrampicare su delle pareti verticali lisce e bagnate di roccia. Tra l'altro queste anguille, che si trovano da quasi il livello dei laghi di grotta fino a 5 metri, sono appiccicate generalmente con il corpo in senso più o meno orizzontale e la testa che pende verso il basso. Sono come se fossero proprio appiccicate da colla. Come se qualcuno le avesse lanciate contro... Lanciate, oppure, esatto. Invece, cosa è venuto fuori? È che le anguille che abbiamo datato con il metodo del radiocarbonio, quelle che stavano più in alto, avevano delle età più vecchie di anguille che invece le abbiamo raccolte da livelli più bassi, più vicini all'attuale falda freatica. E quindi queste anguille innanzitutto si ritrovano appiccicate su queste pareti verticali praticamente, indicando che quando sono morte dentro la grotta hanno galleggiato, si sono gonfiate dei loro gas di decomposizione e hanno galleggiato in superficie fino a che si sono poi dopo adagiate o appoggiate sui bordi di questi laghi. Quindi come se la superficie dell'acqua si fosse abbassata e le anguille testimoniano gli antichi livelli dell'acqua. Esatto. Allora, diciamo che un'anguilla che ha 8.000 anni si ritrova a 5 metri sopra all'attuale livello della falda acquifera, indica che la falda acquifera si è abbassata relativamente in questo periodo di tempo di 5 metri, una velocità di circa mezzo millimetro per anno, se vogliamo. E voi come spiegate questo abbassamento della falda? L'abbassamento della falda è dovuta principalmente ad un processo tettonico, un processo legato al fatto che l'Appennino si solleva lentamente, ad una velocità che è intorno a 0,3 mm ad anno, e questo sta succedendo ormai da più di un milione di anni. E allora cosa succede? Che queste anguille ci hanno dato l'evidenza di questo sollevamento. Man mano che l'Appennino si solleva, i fiumi cercano di rimanere più o meno, di mantenere il loro profilo, facendo cosa? Erodendo il loro letto e quindi incidendo le rocce che costituiscono i rilievi dell'Appennino. In questo modo si è formata la gola di Frassassi e tutte le altre gole del nostro Appennino umbro-marchigiano. Certo, a questo punto la nostra secondo dubbio riguarda come hanno fatto queste anguille, che sono comunque animali abituati anche a grandi spostamenti tra l'acqua dolce e l'acqua salata, a sopravvivere in un ambiente come quello delle grotte. Cosa mangiavano, come vivevano? Hanno trovato un ecosistema molto complesso e ricco di organismi, non solo microorganismi come batteri, solfobatteri e anche archea, ma anche organismi più grossi come banchi addirittura di piccoli anfipodi, che sono come dei piccoli gamberetti che arrivano al massimo a 1,5 cm, 2 cm di lunghezza, ma anche vermi, anche altri piccoli crostacei come gli ostracodi per esempio, e si sono potuti cibare praticamente di tutte queste faune, di questi animali che vivono in grotta, in un sistema che noi chiamiamo autotrofo e che è basato tutto su queste masse batteriche che vivono nelle acque sulfidiche della grotta. Un sistema quindi che non attinge risorse dall'esterno? Non attinge autonomo. Assolutamente nessuna risorsa dall'esterno. Un sistema che voi state ancora studiando al centro delle vostre... Sì, lo stiamo studiando e abbiamo già classificato un gran numero di organismi, oltre ai batteri e gli archea, che sono queste forme di vita primordiale unicellulare. Addirittura ci sono migliaia di specie diverse, ognuno che fa la sua cosa, e costruiscono delle grandi masse di colonie batteriche proprio negli strati sulfidici di questi laghi in grotta. Sul numero delle scienze, questo mese in edicolo, uno degli articoli ampi introduce a quei progetti complessi che per combattere il riscaldamento globale lanciano idee che vanno nella direzione ardita di schermare la Terra, ovviamente in modo parziale, dai raggi del sole. Una breve recensione di questo articolo di Chiara Albicocco, ascoltiamo. Implacabilmente si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferie o in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata. Chi di voi non ha riconosciuto la scena? È quella in cui il povero ragionier Fantozzi è perseguitato dalla nuvoletta personale che gli scarica sulla testa pioggia e fulmini da poco più di 2 metri di altezza. Ecco, la gag ci ricorda il potere che esercita sulla nostra immaginazione l'idea di acquisire, prima o poi, la capacità di controllare il tempo meteorologico. La nuvoletta personalizzata o lo squarcio di sole tra le nubi personalizzato a richiesta non sono ancora in vista. Ciò che appare più concreto, invece, paradossalmente, è la possibilità di influire sul clima a livello globale. In altri termini, di modificarlo artificialmente. Non abbiamo già fatto abbastanza danni al nostro clima, ci si chiede? Il punto è proprio questo. La situazione potrebbe ormai essere così compromessa che la strategia della riduzione delle emissioni di CO2 rischia di rivelarsi insufficiente, rendendo necessario agire direttamente sul clima per ridurre gli effetti deleteri del cambiamento climatico. Quali sono le ipotesi in campo? Ce lo spiega la rivista Le Scienze, con un articolo apparso proprio sull'ultimo numero di gennaio, dedicato appunto alla geoingegneria, ovvero come creare nuvolette di fantozzi su scala globale però. Già, perché la via che appare di gran lunga più promettente, perché si rischiano pochi effetti secondari e perché costa poco, è quella di creare una sorta di foschia sulle superfici oceaniche che rifletta un po' più di luce, raffreddando di conseguenza la superficie terrestre. Foschia che sarebbe creata da alcune navi automatiche, le quali non farebbero altro che spruzzare nell'atmosfera acqua di mare nebulizzata, molto finemente. Nell'articolo si accenna anche ad un'ipotesi che sta sollevando davvero un dibattito molto forte, proprio in questi ultimi tempi. Ecco, per invertire, o meglio rallentare il riscaldamento globale, qualcuno propone anche di immettere grandi quantità di biossido di zolfo in stratosfera, per bloccare i raggi solari, come avviene durante le grandi eruzioni vulcaniche. Ecco, non vi spieghiamo come funzionerebbe perché sarebbe troppo complicato e comunque lo trovate sull'articolo, ma va detto, i dubbi ci sono e sono molteplici. Morì a 59 anni una mattina mentre si stava vestendo, un'embolia. Era il 17 luglio del 1912 e così se ne andava Henri Poincaré, francese, uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, ma anche un uomo di grande semplicità. Percorse in lungo e in largo tutta la matematica del suo tempo e contribuì fortemente ad aggiungere importanti percorsi. Ci lasciò una famosa congettura, sulla quale un libro è appena uscito. E di questo libro vi parla ora Maurizio Menis. Si racconta che uno studente di Euclide, il padre della geometria vissuto tra il IV e il III secolo a.C., dopo aver appreso il primo postulato, abbia chiesto al maestro che scopo pratico avesse lo studio della geometria. Stando alla leggenda, Euclide si sarebbe allora rivolto a suo schiavo replicando con sdegno: «Dà a questo ragazzo una moneta, dato che deve trarre un profitto da ciò che apprende». Molti secoli dopo, nel 2002, il matematico russo Grigori Perelman ha risolto uno dei più longevi e affascinanti enigmi della matematica, che resisteva agli attacchi delle menti migliori sin dalla fine dell'Ottocento. Si tratta della congettura di Poincaré, che Perelman ha dimostrato all'interno di un lavoro che per la verità è di portata assai più vasta. Ecco, per questo successo gli è stata assegnata la medaglia Fields, che è il più alto riconoscimento a cui possa ambire un matematico, e anche il premio messo in palio dal Clay Institute, $1 milione, tondo tondo, una cifra niente male, per aver risolto uno dei 7 problemi del millennio, annunciati all'inizio del 2000. Ebbene, Perelman ha rifiutato entrambi. Insomma, la leggenda di Euclide che si rinnova in qualche modo anche nella nostra moderna e, insomma, materialistica epoca. Ma che cos'è la congettura di Poincaré? Ebbene, prendete una corda molto lunga, al limite quanto la circonferenza di tutto l'universo, quindi veramente lunga, e disponetela lungo un qualunque percorso. Non so, girate a destra dopo la galassia di Andromeda, proseguite per un po' e poi tornate indietro. Infine, unite gli estremi formando un cappio. A questo punto cominciate a stringere. Le possibilità sono due. O riuscite a stringere questo cappio fino a chiuderlo completamente, oppure il cappio si bloccherà. E per recuperare la corda sarete costretti a tagliarlo e recuperare separatamente i due monconi. Bisogna precisare, ecco, che oggetti come stelle o pianeti, per quanto ingombranti, non rappresenterebbero un ostacolo, perché potreste sempre superarli facendogli scivolare la corda sotto oppure sopra. Ebbene, se qualunque cammino scegliete, e per quanto sia lungo, siete sempre in grado di stringere il cappio fino a chiuderlo, allora sappiate che il vostro universo è una trisfera. Su cosa sia esattamente una trisfera è forse il caso di soprassedere, anche se è abbastanza chiaro che si tratta di un parente della ben nota sfera. Basti sapere che, insomma, è uno di quegli strani oggetti matematici impossibili da disegnare e anche solo da visualizzare nella mente che popolano la topologia. C'è chi sostiene addirittura che la geometria dell'universo dantesco fosse una trisfera. Beh, come avrete intuito, Poincaré fu appunto un topologo e diede contributi fondamentali a questa disciplina che studia proprietà molto generali dello spazio geometrico. Tanto per fare un esempio, la teoria della relatività generale, che Einstein portò a compimento nel 1915 e perciò solo 3 anni dopo la morte di Poincaré, non sarebbe stata possibile senza il suo lavoro. Ebbene, è uscito un libro che racconta la storia della congettura attraversando un po' tutta la storia della matematica, da Euclide a Pitagora fino ai giorni nostri e all'impresa di Perelman. Il libro si intitola La congettura di Poincaré di Donald O'Shea, edizioni BUR. È un viaggio che ci porta dentro una disciplina poco nota, la topologia, che oggi però è fondamentale negli studi di fisica più avanzati, insomma quelli che indagano la natura più profonda dell'universo. Ha scritto Galileo a suo tempo: il libro della natura è scritto nel linguaggio della matematica, i suoi caratteri sono cerchi, triangoli e quadrati. Beh, non poteva sapere quanto avrebbe avuto ragione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla risposta del quiz. Il quesito era molto breve. Siete su un'auto tanto veloce da superare la velocità del suono, più di 1000 km/h. La domanda: se nell'auto, mentre andate a questa velocità, accendete la radio, riuscite a sentirla? La risposta giusta era la terza, e cioè dipende. Se l'abitacolo è chiuso, l'aria su cui viaggia il suono va alla sua stessa velocità e quindi non c'è quella differenza, l'aria ferma, il suono che va a 300 metri al secondo, che determina la situazione particolare di un mezzo che va più veloce del suono. Perché, ricordiamolo, qui si deve avere che la fonte sonora vada più veloce di quanto il suono si propaga nell'aria. Ma l'aria invece, chiusa nell'abitacolo, va a 1000 km/h. Se la macchina è scoperta e gli altoparlanti sono sul retro dell'abitacolo, chi è sui sedili davanti non sentirà la radio. Il suono dovrebbe correre sull'aria e raggiungerli, ma quest'aria, nella macchina scoperta, sta relativamente correndo all'indietro a più di 1000 km/h. Siamo all'ultimo argomento di questa puntata di Mebius. Sta proprio cambiando il mestiere dell'archeologo, però non mi sembra che perda il suo indubbio fascino. Vediamo cosa ne pensate andando in Siria con Maurizio Melis. Buonasera, Daniele Morandi Bonaccossi, è in linea, ci sente? Sì, ci sono, buonasera a lei. Allora, lei è ricercatore presso l'Università di Udine di storia e tutela dei beni culturali. Adesso però si trova in un buco a Katna. Ci dice anzitutto dov'è e che cos'è Katna? Katna è un'antica città insediata dal terzo al primo millennio avanti Cristo, che si trova nell'odierna Siria centrale, a metà strada fra la capitale, che è Damasco, e Aleppo, la seconda città più grande della Siria. Che è a nord di Damasco, quindi a qualche centinaio di chilometri da Damasco? A 160 chilometri da Damasco. Okay. E cosa è lì a fare? Siamo qui con una missione archeologica appunto dell'Università di Udine, noi siamo archeologi del vicino Oriente Antico e scaviamo in questo antico sito della Siria da 10 anni, dal 1999, quest'anno il 10° anno di attività, e scaviamo questa città che, come dicevo prima, fu fondata alla metà del terzo millennio e raggiunse l'apice della suo splendore, della sua gloria, del suo sviluppo economico e politico nella prima metà del secondo millennio, e poi iniziò un graduale declino che si concluse attorno alla metà del primo millennio avanti Cristo, quando la città venne poi abbandonata. Fu abbandonata. Ecco, come mai venne abbandonata questa città? Fu abbandonata per una serie di ragioni, naturalmente non c'è mai un'unica causa, è un insieme di concause che contribuirono a determinare l'abbandono. Fra queste cause c'è prima di tutto una ragione di carattere politico-militare, e cioè che la Siria, i grandi re assiri della fine dell'VIII secolo, in particolare avanti Cristo, naturalmente, sì, e iniziarono una conquista, un'espansione molto rapida della Siria occidentale, e presero la capitale del regno da cui la nostra città dipendeva, nel sito dell'odierna città di Hama, e la conquistarono, la distrussero violentemente nel 720 avanti Cristo, e questa fu la prima causa, naturalmente, che determinò un generale sconquasso politico, e il territorio venne largamente sconvolto proprio come conseguenza di queste campagne militari. Ci sono però probabilmente anche altre ragioni, per esempio di tipo ambientale, che portarono portarono ineluttabilmente, quasi direi, all'abbandono della città. Quindi diciamo che in un certo senso secolo avanti Cristo. Ecco, le ragioni politiche si sono innestate su un degrado ambientale dovuto alle attività antropiche, che mi sembra uno degli elementi più interessanti della vostra ricerca, di cui si è parlato tra l'altro recentemente su un articolo delle Scienze. Ecco, che cosa è successo in pratica? È successo che a partire dalla fine del secondo millennio, quindi circa mezzo millennio prima dei fatti di cui stiamo parlando ora, in Siria centrale, in generale in tutta la Siria, le precipitazioni piovose hanno cominciato drasticamente a ridursi sempre di più, i corsi d'acqua quindi sono diventati meno ricchi, meno abbondanti, le risorgive carsiche, che sono abbondanti in questa regione, hanno naturalmente visto diminuire il livello dell'acqua, e tutto questo ha portato ad un processo di inaridimento, di aridificazione del territorio. A questo si sono sommati poi anche quelli che noi chiamiamo i fattori antropici. Quindi c'è stato un contributo umano. C'è stato un contributo umano, come del resto noi sappiamo benissimo, ai giorni d'ostra, al giorno nostro, il nostro paese, in cui si parla costantemente di dissesto idrogeologico. Bene, questa cosa succedeva anche nell'antichità. E nel primo millennio in Siria raggiunge uno dei suoi vertici, proprio perché l'estensione delle colture, dei campi coltivati, il disboscamento per far posto alle colture, soprattutto cerealicole, determinano naturalmente una riduzione della copertura della vegetazione, un processo di erosione sempre più forte dei suoli agricoli, e quindi tutto questo, sommato naturalmente al processo di aridificazione del territorio di cui parlavo prima, porta ad un degrado ambientale molto forte, che è uno degli elementi che causarono sicuramente l'abbandono della città di Katna attorno al VI secolo avanti Cristo. Ecco, qui la sentiamo, questo credo fosse un martello pneumatico. No, non scaviamo, le pneumatici, è passata una motocicletta. È passata una motocicletta, che lei lì, appunto, in un buco negli scavi di Katna. Sì, ogni tanto si sente anche il vento nel cellulare. Senta, quello che emerge, anzi, facciamo così, io le faccio sentire una cosa e lei adesso mi dice se la riconosce. Allora, l'ha riconosciuta? Eh beh, sì, certo, la famosissima sigla del film di Indiana Jones. Ecco, da cui viene fuori una immagine, una figura dell'archeologo che è quella del cercatore di tesori. Poi c'è quello buono e c'è quello cattivo, ma in fondo l'archeologo lì viene rappresentato così. E un po' è effettivamente è stato così, soprattutto agli inizi dell'archeologia, cioè si andava in cerca dei grandi tesori. Adesso invece l'archeologia si concentra su altri aspetti, per esempio il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, si concentra sulla vita quotidiana, sull'utilizzo delle risorse. Questo grazie al fatto che in archeologia sono entrate molte altre discipline che, insomma, fino a qualche anno fa erano estranee. Ci fa qualche esempio di cose che avete scoperto in questo modo, con ricerche chimiche, con ricerche biologiche? Certo. Beh, con ricerche chimiche, per esempio, di biochimica, noi siamo in grado molto spesso di ricostruire il contenuto dei vasi antichi che troviamo. Per esempio, è stato scavato proprio qui nel sito di Katna il grande ipogeo reale, la tomba, il sepolcro dei re di Katna della metà del XIV secolo avanti Cristo, all'interno del quale sono state rinvenute decine e decine di giare che contenevano derrate alimentari che venivano date, offerte ai defunti per accompagnarli nella loro vita dell'aldilà. Bene, noi adesso siamo in grado, grazie alle analisi biochimiche di cui le parlavo, fatte all'Università di Bristol, di sapere che cosa contenevano molti dei vasi che sono stati rinvenuti in questa tomba. Alcuni contenevano probabilmente una bevanda fermentata a base di cereali, probabilmente birra, altri contenevano sicuramente latte, altri contenevano c'erano vino. Anche, mi perdoni, mi ha colpito con questa cosa, c'erano anche diversi allevamenti di maiali, per esempio, che certamente sono scomparsi da quelle terre ormai qualche secolo fa. E ormai dal VI secolo, VII secolo dopo Cristo, dalla conquista araba di maiale, evidentemente non ne viene più allevato qui in Siria, come in tutti i paesi arabi. Ecco, mi ha colpito il fatto, per esempio, che fosse possibile per voi stabilire di che specie fossero gli alberi utilizzati nell'architettura. Certo, questo... questo è possibile per esempio grazie alle ricerche condotte dagli archeobotanici. Cosa fanno gli archeobotanici? Studiano i semi spesso carbonizzati che noi troviamo nei nostri strati archeologici e che rivelano i tipi di colture agricole per esempio che venivano coltivate. E siamo in grado di ricostruire per esempio anche la vegetazione spontanea, diciamo quella selvatica, non quella allevata, che circondava il sito di Capua, questo grazie alle analisi condotte dai nostri palinologi, che sono gli studiosi che si occupano dello studio dei pollini che noi troviamo intrappolati nei sedimenti del lago presso quale Katna sorgeva e che si sono conservati e che poi una volta studiati ci rivelano il tipo di vegetazione, di copertura vegetativa che caratterizzava il territorio nei diversi periodi della storia del sito. Va bene, senta Morandi Bonacossi, grazie per averci fatto capire come sta cambiando allora l'archeologia. Arrivederci. Arrivederci a lei, arrivederci. Non è facile capire di che sesso siano i delfini. Non è un problema da poco, perché il rapporto maschi-femmine è molto importante per la sopravvivenza delle specie. E se vogliamo monitorare come vanno le cose fra i delfini, tale rapporto dobbiamo essere in grado di valutarlo. Dunque, da fuori, vedendo saltare fuori dall'acqua quindi questi delfini, non si capisce nulla. Non ci sono differenze anatomiche esteriori. Non si può certo guardare da vicino, mandando sommozzatori a fare un ben poco discreto lavoro, oltretutto. Perché questo? Beh, perché non è pensabile che si possano usare metodi che richiedono lunghe osservazioni per arrivare alla conclusione sul sesso di 4 o 5 esemplari. L'obiettivo è individuare rapidamente le differenze in modo da lavorare su grandi numeri. Lucy Rowe e Stephen Dawson, biologi marini presso la University of Otago a Dunedin, siamo in Nuova Zelanda, hanno trovato una soluzione. Una soluzione che parte da un dato abbastanza conosciuto quando si parla di differenze di genere nel mondo marino. Le pinne, soprattutto quelle dorsali. Spesso c'è una differenza fra maschi e femmine. Nei delfini c'è. A vista, per le dimensioni, ad esempio, non ci sono differenze, ma a guardar bene, studiando degli esemplari campione, qualche traccia sembra individuabile. Per esempio, le pinne dei maschi portano più segni di ferite, probabilmente per i combattimenti rituali all'interno del branco. Ci risiamo però. Una cosa è osservare qualche delfino in un'area di mare controllata, magari con quei vasti recinti nei quali i biologi marini tengono delle specie per brevi periodi. Altra cosa è andare per mare e osservare le pinne in libertà. I due ricercatori neozelandesi allora hanno inventato un sistema fotografico basato su un controllo laser che guida lo scatto e la sua precisione. È di fatto quel sistema che si chiama fotogrammetria. L'hanno applicato, il che significa scattare delle foto rapidamente, tante, mentre si incontrano branchi di delfini per mare. Ebbene, le immagini riescono a cogliere bene queste differenze fra le pinne dorsali. Godfrey Hohmann e Martin Surbeck del Max Planck Institute, siamo in Germania, studiano invece i bonomo, primati che sono stati finora considerati molto più tranquilli degli scimpanzé. Qui tranquilli sta per non aggrediscono consimili e altre scimmie. Pare allora che questa interpretazione sia completamente entrata in crisi. Due ricercatori tedeschi hanno compiuto numerose osservazioni nel Salonga National Park in Congo, registrando con i propri occhi gruppi di bonobo che tendevano degli agguati con finali decisamente carnivori, cioè si mangiavano le vittime. Tendenzialmente si cibano di frutta, questo è vero. Tendenzialmente però. Come ho detto altre volte, quello che avevamo da raccontarvi ve l'abbiamo raccontato. Buona serata a tutti e tutte, noi torniamo la prossima settimana.